Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto e ringrazio il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi raccontiamo una vicenda che ci porta fuori dall'Italia. Sì, è capitata una vicenda che il nostro sportello Vacanza Informata, che è operativo ormai a pieno regime da un po' di tempo, qualche tempo fa un albanese in regola da oltre 15 anni in Italia si è trovato coinvolto per scelta di un'agenzia di Oiago, la quale nell'atto di prenotazione dei biglietti per rientrare a casa hanno sbagliato destinazione, dirottandolo, pretendendo di dirottarlo di circa 800 km rispetto a dove doveva andare il signore. Quindi lui doveva andare a Tirana, no? Che è in Albania, e invece si è trovato a Timisoara, in Romania. Sì, è successo esattamente questo, il signore è andato lì per rientrare e trascorrere le ferie con la sua famiglia durante questi 15 giorni, ha comprato 3 biglietti aerei e alla vigilia della partenza è andato in agenzia per ritirare i biglietti e nell'occasione della stampa ha visto che l'agenzia ha completamente sbagliato quella che era la sua richiesta. Chiaramente l'agenzia ha tentato poi di porre rimedio invitando l'albanese ad andare dal suo medico di base e darsi malato in modo che con un certificato medico potesse magari riuscire a recuperare i viaggi. E chiaramente il signore di questo si è risentito e alla fine, non trovando soluzione e dovendo praticamente la sua moglie e i suoi figli arrangiarsi con il traghetto e lui trovandosi ancora in Italia senza biglietto aereo, a rivolgersi all'Adico per denunciare l'accaduto e anche vedere di riuscire a recuperare i soldi. Ecco, quindi vicenda che stiamo raccontando, ma che ovviamente è tuttora aperta, non si è ancora risolta. Sì, una vicenda tuttora aperta perché il signore doveva proprio partire un paio di giorni fa, è ancora in Italia, è ancora alle prese con questa agenzia, chiaramente il nostro ufficio, i nostri esperti si sono messi subito al lavoro, richiederemo subito l'immediata restituzione dei soldi, dei biglietti dell'aereo che il signore ha dovuto anticipare, ma valuteremo anche, e questo sarà fatto dai nostri esperti legali, i reali danni morali che ha ricevuto, perché adesso è la moglie in viaggio con il traghetto, parliamo di 2 giorni di viaggio, 800 km di destinazione diversa rispetto a quella dove doveva andare, ha anticipato dei costi poi che non era tenuto dover anticipare e soprattutto lui che aveva solo 2 settimane di vacanza e essere lì ancora da sabato si trova in Italia e ancora alle prese con questa situazione perché i soldi per altri biglietti non ne ha. Ecco, quindi questa è una delle tante cose che capitano allo sportello Vacanza Informata dell'Adico e poi insieme a voi si cerca magari una soluzione che dia ovviamente soddisfazione piena al cliente che in questo caso per un errore dell'agenzia si è trovato in gravi difficoltà. Ci sono altre questioni che ovviamente prendete in considerazione come sportello che riguardano le vacanze? Ma credo che Francesco, il nostro sportello ormai sta lavorando a pieno ritmo, non c'è giorno che non raccogliamo delle segnalazioni o degli episodi di incresciosi situazioni in cui magari le persone hanno prenotato destinazioni di una certa categoria, poi se ne sono trovate di una più inferiore, molti casi riguardano poi anche cattive situazioni di pulizia. Poi strutture che invece di essere vicino alla spiaggia, come era descritto sul sito, sui doppi in realtà sono lontane, e tante altre situazioni in cui le persone si sono lamentate, per esempio per i servizi che hanno dovuto pagare non erano inclusi, per delle gite che dovevano essere incluse e non erano sul pacchetto, e soprattutto quando si prenota tramite internet fare molta attenzione perché ci sono persone che hanno prenotato guardando immagini, fotografie di video alberghi di un tipo, poi addirittura è capitato che la struttura era inesistente. Ecco, quindi quella delle truffe su internet, bisogna veramente stare attenti, insomma, avere un po' l'accortezza di dove si va a parare. Proprio per questo esistono anche dei siti che come dire, sono cumulativi di varie offerte, sono anche un po' forse una garanzia ulteriore. Sì, ci sono molti siti, esistono le recensioni, esistono lo sportello dell'Adico che dà informazioni tranquillamente a chiunque, esiste anche il consiglio di avere la pazienza di informarsi e di stampare quelle che sono le condizioni contrattuali e descrittive riportate sia sui siti che sui Deppian, perché poi ricordiamoci che le assicurazioni e quello che prevede la norma europea, che è stata anche recepita poco fa, che prevede anche il risarcimento per i danni morali determinati da quella che è un po' l'unicità del viaggio che una persona doveva prefiggersi di fare, può certamente aiutarci a far valere i propri diritti. Bene, ricordiamo che il sito da controllare, oltre a quello magari per cercare la vostra vacanza ideale, è quello dell'associazione difesaconsumatori.it, che è il sito dell'Adico, dove poi trovate i contatti e le modalità per chiedere aiuto e anche un consiglio su tanti problemi che toccano, ahimè, noi consumatori. Io ringrazio intanto il presidente Carlo Garofolini per essere stato con noi. Io ringrazio te Francesco, ricordo agli ascoltatori che lo sportello è sempre aperto, quindi in qualsiasi momento, giorno e ora di Ferragosto oppure durante il mese possono contattarlo, e colgo l'occasione per salutare tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.